piangerò della paura, della ipocondria, dai turbamenti che oggi incontrerai per la tua via. Che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori del tuo spazio umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Le tutte le amare.